Nella ricerca e studio della vita di Elizabeth Garrett ho incontrato altre mediche coraggiose, ed in particolare Elizabeth Blackwell, così determinante nella decisione di Elizabeth Garrett stessa di studiare medicina. Il 1859 fu l'anno in cui Elizabeth Garrett incontrò a Londra Elizabeth Blackwell, venuta in Inghilterra dagli Stati Uniti per portare in Europa la sua esperienza come prima donna medica d'America. Elizabeth Blackwell vide la luce il 3 febbraio del 1821 a Bristol, in Inghilterra, in una famiglia numerosa, terzogenita di 9 tra sorelle e fratelli. La madre, Anna Lane, appartenente come il marito ai dissenzienti della Chiesa d'Inghilterra e come lui molto religiosa, sostenitrice delle lotte sociali, insegnò alle figlie musica e letterature, e il padre Samuel, benestante, era convinto che le donne dovessero ricevere la stessa educazione degli uomini. Per questo l'istruzione veniva seguita a casa con istitutrici e maestre che fornivano le conoscenze necessarie mentre cresceva la loro passione per la lettura, tanto che la gioia più grande era il regalo di un nuovo libro e le paghette erano spese soprattutto per l'acquisto di libri. Gli echi del mondo esterno giungevano vagamente nella ricca e soddisfacente vita domestica. Nel 1932 decisero, visti i grandi cambiamenti sociali in quell'epoca, di emigrare negli Stati Uniti e dopo 7 settimane di viaggio raggiunsero New York, lasciando l'Inghilterra dove imperversava il colera, che fece vittime anche nella nave, mentre tutta la famiglia, costituita in quel momento da 8 tra bambine e bambini e da 7 adulti, rimase in buona salute. Trovarono la città relativamente deserta per la stessa causa epidemica. Elizabeth, che aveva allora 11 anni, frequentò un'eccellente scuola, partecipando con ardore alla lotta antischiavista. Nel 1838 la famiglia si trasferì nell'Ohio, mentre Elizabeth aveva 17 anni e dopo pochi mesi il padre morì, lasciando una vedova e 9 tra figli e figli, senza amicizie e risorse finanziarie. Nell'affrontare le difficoltà quotidiane, le 3 sorelle, di cui Elizabeth era la maggiore, valutarono di estrema importanza l'educazione alle donne, iniziarono una scuola per ragazze, oltre a partecipare con passione alle conferenze pubbliche su questo argomento. Per sostenere le necessità della famiglia, nel 1840, a 21 anni, Elizabeth accettò l'invito di occuparsi di una scuola distrettuale femminile ad Henderson, nel Kentucky, come insegnante di musica e di tedesco. Vi rimase per quasi 4 anni, dimettendosi poi per il senso di ingiustizia che lei sentiva per la forte tensione schiavista della popolazione, che viveva costantemente nel timore di una fuga degli schiavi e nell'insicurezza che questo generava riguardo al potersi muovere liberamente nelle campagne e nei boschi intorno alla città. Ritornò a casa nell'Ohio, dove la vita familiare era piena e attiva. Ben presto sentì il bisogno di una vita più avvincente rispetto allo studio della musica, del tedesco, della metafisica e degli interessi ordinari che la vita sociale le presentava. Fu in quel periodo che una signora amica, affetta da una malattia molto dolorosa, le suggerì l'idea di studiare medicina. Prima di morire le disse: "Hai passione per lo studio, tempo libero e godi di buona salute. Perché non studiare medicina? Se fossi stata curata da una donna medico, le mie peggiori sofferenze mi sarebbero state risparmiate." Per Elizabeth un tale suggerimento era impossibile da seguire perché odiava tutto ciò che aveva a che fare con il corpo. Ricordava ancora con disgusto, durante gli anni di scuola, l'orribile visione di un occhio di bue nel suo cuscino di grasso piuttosto sanguinolento che l'insegnante esponeva per mostrare la meravigliosa struttura dell'occhio. La difficoltà del rapporto con il corpo si manifestava anche nelle relazioni con gli uomini, verso cui si sentiva attratta, per poi finire delusa o respinta quando il rapporto diventava sufficientemente intimo. Rimaneva tuttavia, pur sempre, il ricordo dell'amica e in una pagina del suo diario di quel periodo scrisse: "Mi sento più che mai decisa a diventare medico, ponendo così una forte barriera tra me e il matrimonio ordinario. Devo avere qualcosa che impegni i miei pensieri, qualche scopo nella vita che riempia questo vuoto e impedisca questo triste logorio del cuore." Poiché non aveva alcuna idea di quale fosse il percorso, mentre diventava sempre più forte questo desiderio, scrisse e consultò diversi medici in varie parti del paese, alcuni dei quali conoscenti della sua famiglia, sulla possibilità che una donna potesse diventare medico. Le risposte furono curiosamente unanimi. Tutti risposero che l'idea era buona, ma impossibile da realizzare, che non c'era modo di ricevere un'educazione di questo tipo per una donna, che comunque l'educazione richiesta era lunga e costosa, che c'erano innumerevoli ostacoli lungo il percorso. In breve, l'idea era valida, ma impossibile da realizzare. Elizabeth concluse invece che se l'idea era valida, doveva esserci un modo per realizzarla. L'idea di ottenere una laurea in medicina assunse gradualmente l'aspetto di una lotta morale e la lotta morale esercitava su di lei un'immensa attrazione. In quello stesso periodo era attiva con la sua pratica Madame Restell, una donna inglese di umili origini, immigrata in America in cerca di fortuna, la quale senza alcuna preparazione aveva intercettato il bisogno delle donne di una pianificazione delle gravidanze e per questo praticava interruzioni con erme e manovre chirurgiche con il falso titolo di medico-donna. Elizabeth rimase scioccata che il termine di medica fosse applicato ad una donna che esercitava esclusivamente la pratica dell'aborto ed inoltre senza alcuna preparazione. Molto importante per la sua decisione, come le scrisse nel suo diario, fu l'incontro con Harriet Beecher Stowe, abolizionista, autrice de La capanna dello zio Tom della 51, la quale sottolineò che benché l'idea fosse per lei impraticabile, tuttavia, se fosse stata realizzata, avrebbe potuto essere molto utile perché poteva schiacciare il forte pregiudizio piuttosto che esserne schiacciata. Mentre anche il medico della sua famiglia ribadiva la difficoltà dell'impresa, Elizabeth alla fine decise di lasciare la sua calorosa cerchia familiare e la sua vita sociale, facendo il primo passo verso la futura carriera degli studi medici. Accettò un posto come insegnante in una scuola della Carolina del Nord, dove, mentre accumulava il denaro per il futuro, poteva anche iniziare a studiare medicina, poiché il reverendo direttore della scuola era stato in precedenza medico. Anche nella successiva esperienza nella Carolina del Sud, come insegnante di musica presso un collegio femminile, ebbe l'opportunità di alternare lo studio del greco con quello di libri di medicina, messi a disposizione da un professore del Medical College che si era preso a cuore la sua causa. Nell'estate del 47, a 26 anni, con i guadagni accuratamente accumulati, decise di entrare nella scuola di medicina di Filadelfia, considerata allora la sede principale dell'insegnamento di medicina in America, presentando le domande di ammissione come studente regolare ai a quattro college della città. I previsti colloqui con i professori furono a volte speranzosi e a volte deludenti. In attesa delle risposte iniziò gli studi di anatomia nella scuola privata di un medico che, con tatto e delicatezza, l'aiutò a superare la naturale repulsione che si prova all'inizio verso questi studi. La sua prima lezione fu sul polso umano. La bellezza dei tendini alla perfetta disposizione di questa parte del corpo colpirono il suo senso artistico e suscitarono un senso di ammirazione per questa branca di studi anatomici. Gli incontri con il direttore dei college di Filadelfia furono deludenti, infruttuosi e a volte aggressivi nei confronti del suo progetto. Il timore della rivalità nel raggiungimento del successo, che a quel tempo spesso esisteva nella mente dei medici, fu espressa chiaramente dal preside di una delle scuole più piccole, che rispose francamente alla sua domanda di ammissione dicendo: «Non potete aspettarvi che vi forniamo il bastone per rompervi la testa». Così rivoluzionario sembrava il tentativo di una donna di lasciare una posizione subordinata e cercare di ottenere una formazione medica completa. Altri suggerimenti che ricevette, poiché sembrava impossibile tentare diversamente, furono o di andare a Parigi, dove era stata aperta l'ammissione anche alle donne, o di travestirsi con abiti maschili per acquisire le conoscenze necessarie presso un famoso chirurgo di Filadelfia, il quale aggiunse anche che avrebbe potuto scegliere due o tre studenti fidati che avrebbero sorvegliato la classe e l'avrebbero avvisata tempestivamente di ritirarsi se il travestimento fosse stato sospettato. Quello del travestimento maschile per accedere agli studi di medicina aveva avuto un precedente in Inghilterra intorno al 1813 e riguardava Margaret Barclay, nata nel 1795, irlandese, che desiderando diventare medica e in quanto donna impossibilitata a farlo, con la complicità della madre e di uno zio professore alla Royal Academy, si iscrisse nel 1813 alla facoltà di medicina di Edimburgo con il nome di James Barry, che avrebbe portato per 46 anni. Fu un medico militare appassionato, inviato nelle colonie inglesi, portò cambiamento nelle modalità con cui venivano trattati i malati di ogni sesso, colore e estrazione sociale. Come chirurgo pioniere praticò a Città del Capo il primo taglio cesareo ad una donna inglese e verrà ricordato come modello di compassione, onestà e rigore. Quando lasciò il corpo, finalmente fu riconosciuta la sua identità sessuale, che venne taciuta e mantenuta segreta in quanto lei era membro dell'esercito, e venne liberata verso il 1950, in seguito alle ricerche della storica Isobel Rhee. Nel consiglio di andare a Parigi, nel suggerimento del travestimento, tentarono Elizabeth neanche per un attimo. Per lei era una crociata morale, quella in cui si era imbarcata, una crociata di giustizia e di buonsenso che doveva essere perseguita alla luce del sole e con l'approvazione del popolo per raggiungere il suo scopo. Scrisse Emma Villard, pioniera della grande opera di educazione femminile, e nella lettera, dopo averle esposto tutte le difficoltà incontrate, le chiese se qualora avesse deciso di andare a studiare a Parigi, poiché lei stessa aveva avuto lì opportunità di studiarvi, come giovane donna non sposata, avrebbe corso il rischio di essere contaminata dall'aria di immoralità della città. Nella lettera le rivolgeva una domanda in realtà retorica: non è forse vero ovunque che una donna che rispetta se stessa sarà rispettata dagli altri e che, laddove la vita è diretta da un motivo forte e puro verso un nobile obiettivo, in modo tranquillo e dignitoso ma determinato, i migliori sentimenti dell'umanità sono messi in campo e la donna suscita stima e rispetto? Dopo le risposte negative dell'Università di Filadelfia e di New York, inviò 12 richieste ad altrettante piccole scuole degli Stati Uniti del Nord. Infine, il 20 ottobre del 1947, all'età di 26 anni, ricevette una lettera firmata dal rettore dell'Università di Ginevra, nello stato di New York, in cui era scritto che era stata accolta la sua domanda, specificando che in occasione della riunione dell'intera classe dei medici del Medical College di Ginevra, sono state adottate all'unanimità le seguenti risoluzioni: che uno dei principi radicali di un governo repubblicano è l'istruzione universale di entrambi i sessi, che ogni ramo dell'istruzione scientifica dovrebbe essere aperto a tutti in ugual misura, che la richiesta di Elizabeth Blackwell di diventare membro della nostra classe incontra la nostra piena approvazione e che, nell'estendere la nostra istruzione a tutti i sessi, la nostra classe dovrebbe essere aperta a tutti, augurandovi di avere successo nella vostra impresa, che alcuni potrebbero ritenere audace nello stato attuale della società, mi associo con tutto il rispetto. Iniziò quindi la carriera universitaria come studente del numero 130. Nel suo diario, Elizabeth, nel novembre del 1947, dopo un mese dall'ammissione, annotò: «Credo che i professori non sappiano esattamente in quale specie della famiglia umana collocarmi e gli studenti sono un po' disorientati. All'inizio mi guardano con sospetto, ma io sono così tranquilla e gentile che il sospetto si trasforma in stupore. Fin dai primi giorni un professore afferma che la mia presenza attira troppo l'attenzione. Tuttavia è anche un'ottima pubblicità per il college, ipotizzando che tra 10 anni un terzo delle classi di college sarà composta da donne in virtù del fatto che Elizabeth Blackwell ha stabilito un precedente per cui la gente aprirà gli occhi. Persino i ragazzi per strada si fermano a guardare mentre passo, così come le signore si fermano a fissarmi come un animale curioso. In seguito, Elizabeth scoprì che aveva talmente sconvolto la correttezza della piccola cittadina in cui studiava che si era affermata la teoria che lei fosse una donna cattiva, i cui disegni sarebbero diventati gradualmente evidenti, oppure che, essendo pazza, un'esplosione di follia sarebbe stato presto evidente. Sentendo l'ostilità della gente, ogni giorno si affrettava verso il suo college dove si sentiva sicuro. Sempre dal suo diario, nel gennaio del 49, scrisse: «Uscita dagli esami superati, sono stata accolta con applausi e credo che riceverò la laurea con la stessa approvazione congiunta. Un sentimento generoso e cavalleresco ha vinto ogni piccolo sentimento di gelosia. Quando sono con loro, anche se più giovani di me, sento spesso quanto potrebbero essere belli i rapporti tra donna e uomo con uno sviluppo più vero del carattere». Ed infine, all'età di 28 anni, avvenne la consegna del diploma di laurea. La cerimonia si svolse in una chiesa presbiteriana, alla presenza, oltre che del preside di facoltà, dei relatori delle cinque tesi. Per prime vennero chiamati insieme i quattro laureandi e dopo un breve discorso in latino venne consegnato il diploma di laurea. Quindi fu il momento di Elizabeth da sola. Il preside si alzò in piedi, togliendosi il cappello, e pronunciò la stessa formula in latino usata per gli studenti, sostituendo il termine domina, signora, a domine, signora. Elizabeth ringraziò il preside dicendo: «Come riportato nel suo diario, Signore, la ringrazio, sarà lo sforzo della mia vita con l'aiuto dell'Altissimo per rendere onore alla mia laurea». Molta gente era presente alla seduta di laurea e soprattutto le signore della città che non l'avevano vista di buon grado per molto tempo. Come scuola delle donne, immaginiamo che alla laurea di Elizabeth Blackwell siano state presenti le precursore europee che qualche secolo prima, essendo donne, avevano dovuto combattere la sua stessa battaglia. Elena Cornaro Piscopia, la prima italiana laureata in filosofia a Padova, o le grandi erudite del Seicento, Elisabetta di Boemia e Anna Maria von Schumann, che non poterono laurearsi perché nessuna università le accettò. E chissà, forse anche Ipazia, Trotula, Hildegard, scienziate e insegnanti erano là a benedire il cammino intrapreso da Elisabetta. A conclusione della cerimonia, uno dei professori di facoltà tenne un discorso ai neolaureati e concluse con un encomio molto gratificante ed entusiasta per Elizabeth, dichiarata guida della sua classe, che aveva seguito in maniera approfondita tutte le materie e che con il suo comportamento signorile e dignitoso aveva dimostrato che l'intelletto, i nervi più saldi e la perseveranza più instancabili erano compatibili con gli attributi più femminili della delicatezza e della grazia. La missione per la prima volta di una donna ad un'educazione medica completa e alla piena parità nei privilegi e nelle responsabilità della professione medica ebbe grandi apprezzamenti in America e se ne parlò anche in Europa. Elizabeth era consapevole che fosse stato compiuto solo un primo passo. Sebbene l'innovazione avesse ricevuto l'approvazione popolare ed uno status fosse ora pienamente riconosciuto, era necessaria un'esperienza medica molto più ampia di quella che lei possedeva. Perciò, per continuare gli studi, si recò a Filadelfia dove fu accolto cortesemente dalla classe medica. Sentiva tuttavia fortemente la necessità di avere opportunità di studio molto più ampie di quelle offerte alle donne in America. Mentre considerava questo problema, ricevette l'invito di un amico, di un cugino in visita, a tornare con lui in Inghilterra e decise quindi di studiare per qualche tempo in Europa prima di impegnarsi nella pratica in America. Alla fine dell'aprile del 49, a distanza di quasi 4 mesi dalla laurea, ritornò nel meraviglioso vecchio mondo che aveva lasciato quando era una bambina di 11 anni. Incontrò a Liverpool e a Londra vari medici e soprattutto chirurghi, dal momento che desiderava con forza dedicarsi totalmente a questa pratica. Tutti furono molto accoglienti, sebbene qualcuno, saputo del desiderio di Elizabeth di praticare l'attività chirurgica, fosse rimasto stupito e quasi incredulo di constatare che la donna medico fosse un essere reale. Nel frequentare i vari ospedali per la sua pratica, anche gli studenti inglesi ebbero la stessa modalità di quelli americani sui compagni. La scena era la stessa, qualche minuto di curiosità e poi tutto continuava come al solito. Dopo molti interessanti e utili incontri in Inghilterra, seguendo i consigli di tutti i suoi insegnanti e amici medici in America, decise di andare a Parigi, l'unico luogo in cui avrebbe potuto trovare illimitate possibilità di studio in qualsiasi branca medica, desiderosa di dedicarsi alla chirurgia oltre che alla medicina. Per Vi arrivò il 21 maggio del 49, appunto con l'unico obiettivo di proseguire i suoi studi senza avere idea delle tensioni politiche che allora covavano tra la gente e senza temere il colera che allora minacciava un'epidemia. Attraverso varie lettere di presentazione scritte da amici medici o professori, ottenne di frequentare la maternité, per ottenere in breve tempo conoscenze pratiche preziose e rimandando gli studi di chirurgia, vero scopo della sua venuta a Parigi. La Maternité, una istituzione allora famosa in tutto il mondo, Elisabeth raggiunse il suo primo obiettivo, che era quello di diventare un'ostetrica esperta, acquisendo in 6 mesi di intenso e duro lavoro una sicurezza pratica in un'importante branca della medicina. Nell'ultimo periodo le occorse un incidente grave per le conseguenze che ebbe. Mentre seguiva il lavaggio degli occhi di un neonato con una congiuntivite purulento, un po' di acqua le schizzò nell'occhio sinistro, che in breve tempo si gonfiò e divenne dolente. Non fu possibile evitare il danno temuto, la cecità completa dell'occhio sinistro. Scrisse: «Il destino mi ha dato un forte colpo, ora sono di nuovo in piedi, forte e fiduciosa. L'incidente avrebbe potuto essere molto peggiore, tanto che sono più disposta a rallegrarmi che a lamentarmi. Mi ritengo certamente molto fortunata e intendo ancora diventare in un giorno non lontano la prima donna chirurgo». Tuttavia, le condizioni dell'occhio, divenuto cieco, impediva del tutto quell'applicazione ravvicinata necessaria allo studio professionario. Sia il lavoro anatomico che quello chirurgico erano fuori discussione ed anche la lettura dovette essere messa da parte. Per completare la sua esperienza pratica, nel maggio del 50 tornò a Londra, dove le venne concessa la possibilità di seguire ogni reparto al St. Bartholomew Hospital. In questo periodo una delle conoscenze più preziose fu Florence Nightingale, di cui la nostra scuola si è già occupata. All'epoca Florence era una giovane donna che si scontrava con le restrizioni che paralizzavano le sue energie attive. Elizabeth trascorreva molte ore con Florence davanti al camino o passeggiando, discutendo dei problemi del presente e delle speranze future. A lei soprattutto Elisabeth dovette la coscienza che l'igiene fosse fondamentale nell'esercizio della medicina. In seguito questa divenne la base su cui gradualmente costruì i suoi metodi di trattamento. Dopo 2 anni di permanenza in Europa, nel 1851 tornò in America. I primi 7 anni furono molto difficili perché era senza amici, medici, la società era diffidente, la sua situazione finanziaria fonte di costante ansia. La prima domanda di assunzione come medico nel reparto femminile fu rifiutata, mentre riceveva molte lettere incoraggianti dagli amici inglesi che, con il loro calore, mantenevano vivo il suo sentimento di appartenenza alla sua terra natale. Tra queste, la corrispondenza con Lady Noel Byron, protrattasi per alcuni anni, fu particolarmente incoraggiante proprio per i suoi interessi scientifici ed in particolare per il suo costante studio dei problemi medici. La sua prima attività fu quella di preparare alcune lezioni sull'educazione fisica delle ragazze, che divenne un vademecum pubblicato nel 1952, dopo un anno dal suo ritorno in America, con il titolo Le leggi della vita in riferimento all'educazione fisica delle ragazze. Il tema, molto apprezzato dai medici, fu esposto in una serie di conferenze pubbliche che le guadagnarono importanti relazioni sociali e professionali, tanto che l'anno successivo, cioè nel 1953, decise con l'aiuto di alcuni amici di aprire in un quartiere povero un suo dispensario, dal quale nacquero poi in seguito il dispensario per le donne e i bambini e il College for Women. All'inizio fu davvero difficile perché giungevano lettere anonime, insolenti e pettegolezzi, e pur non avendo incontrato gravi difficoltà nella sua pratica, che si svolgeva in ogni ora del giorno e della notte, tuttavia non erano infrequenti le spiacevoli seccature da parte di uomini senza scrupoli. Con il buonsenso e la fiducia in se stessa e l'attenzione al lavoro, Elizabeth dimostrò che con la sua vita che ogni donna poteva perseguire la sua vocazione medica senza rischi. Il grande impegno personale era stato per molti mesi solitario e in totale assenza di empatia da parte del mondo medico. Alla fine dello stesso anno, per lenire la solitudine, decise di adottare Kitty Barry, un'orfana di 7 anni e mezzo, irlandese, con un temperamento geniale e leale, che proveniva dalla grande comunità di immigrati della contea di New York. La bimba si rivelò un notevole sostegno per lei, grazie al cambiamento che portò nella sua vita. Alla fine del 1955, continuando la sua attività con maggior determinazione, grazie anche alla presenza della piccola Kitty, scrisse una lettera alla sorella Emily, la quale, dopo essersi laureata nel 1954 nell'Ohio come Elizabeth, si trovò ad approfondire la pratica di Edimburgo, dove era stata accolta con cordialità da un noto chirurgo, il quale si era detto disposto a prepararla alla pratica chirurgica, cui Elizabeth aveva dovuto rinunciare a causa della cecità dell'occhio sinistro. Nella lettera riportata nel diario scrive: «Grazie delle statistiche mediche che stai raccogliendo e che utilizzeremo al tuo ritorno per conferenze ed opuscoli. Vorrei raccontarti dell'incontro con la medica Marie Zakharievskaya, di 26 anni, tedesca, assistente del primario di ostetricia a Berlino, che l'aveva assunta come ostetrica responsabile del suo ospedale, dove teneva lezioni a circa 150 giovani studenti donne e a 50 uomini. Alla morte del primario venne chiamato dal Ministero della Sanità americana a lavorare a New York, dove però i colleghi dottori tedeschi volevano che lei lavorasse solo come infermiera. Disperata e attraverso amicizie comuni ci siamo incontrate e io farò di tutto perché raggiunga il riconoscimento anche in America della sua laurea. Per farla conoscere, le ho organizzato un corso a Cleveland dove ha trovato un'accoglienza molto calorosa e grazie alle referenze di un importante medico di Berlino, la facoltà le ha accordato la possibilità della laurea se in un trimestre sosterrà gli esami di chirurgia e chimica e una tesi in inglese. In questo modo, al tuo ritorno saremo un piccolo gruppo di 3 mediche, con voi 2 esperti in chirurgia. Con la presenza nel 1956 di Maria Zakharievskaya e di Emily, tornata dall'Inghilterra, si raddoppiò l'attività lavorativa e l'anno successivo, quando Elizabeth aveva 36 anni, fu fondato il New York Dispensario per donne e bambini, gestito esclusivamente da donne. Questo tentativo suscitò molta opposizione perché, sebbene l'istruzione universitaria fosse aperta anche alle giovani donne, non esisteva un ospedale per la loro preparazione pratica o per l'assunzione come donne medico. La necessità di un ospedale separato per la preparazione medica pratica degli studenti era stata riconosciuta da un confronto tra l'esperienza del New York Dispensario per donne e bambini e il Bellevue Hospital, l'ospedale pubblico di New York, collegato alla facoltà di medicina per l'insegnamento clinico e chirurgico, dove le ragazze preparate in maniera imperfetta non erano riuscite a mantenere la loro posizione. Si dimostrò allora necessario un centro speciale per le donne, non solo per offrire loro un'istruzione pratica, ma anche per testare la capacità e il tatto degli studenti prima di ammetterli a frequentare gli ospedali generali dove erano ammessi gli studenti maschi. Il New York Dispensario per donne e bambini riuscì in questo intento attraverso un consiglio di consulenti, donne e uomini di alto livello professionale. Mentre in America si estendeva la presenza delle donne medico anche in altre città come Filadelfia e Boston, dove si era trasferita a lavorare Marie Zakharievskaya, in Inghilterra c'era un grande interesse per i progressi dell'opera americana ed Elizabeth fu sollecitata da amicizie in Europa a darne conto. Decise di tornare nella sua terra natale per sottolineare l'importanza di questo lavoro medico, preparando una serie di 3 incontri che mostravano ciò che veniva fatto in campo medico dalle donne negli Stati Uniti. Il primo di questi incontri riguardava il valore delle conoscenze fisiologiche per la donna, il secondo le conoscenze mediche e il terzo l'aspetto pratico in America e la sua adattabilità in Inghilterra. Nel 1859 tenne il suo ciclo di 3 lezioni a Londra e notò che l'ascoltatrice più importante fu una giovane donna brillante ed intelligente, il cui interesse per lo studio della medicina fu suscitato, la signorina Elizabeth Garrett. Il mio viaggio in provincia è stato molto interessante per me, in quanto ho messo in contatto un gran numero di persone in diverse classi sociali, mostrandomi ovunque un grande desiderio e un'ansiosa accoglienza di ciò che ho da dare. Le madri implorano di istruirle sulla salute, le giovani ascoltano con entusiasmo l'idea del lavoro come mediche, la ricezione pratica e la familiarità con le nuove posizioni delle donne devono necessariamente crescere lentamente. Deve essere infatti il lavoro di tutta la vita. I bambini dell'attuale generazione crescono abituati alle donne medico, rispettandole e fidandosi di loro, ma la maggioranza degli adulti avrà solo una mezza fede e questa sarà una crescita graduale. L'Inghilterra vuole tanto la nostra esperienza, ma è un lavoro lungo. Tornerò a creare le istituzioni di cui abbiamo piantato solo un piccolo seme. Tra una decina d'anni, quando ci saranno in America istituzioni permanenti degne del loro scopo, potremo aiutare in modo adeguato le giovani donne inglesi più motivate a svolgere il loro lavoro qui. Nel 69, mentre Elizabeth aveva 48 anni, si concludeva l'opera pionieristica in America. Il New York Dispensario per donne e bambine era ben organizzato sotto la guida capace della sorella Emily, per cui Elizabeth decise di tornare in Inghilterra sia per ampliare la sua esperienza di vita che per assistere all'opera pionieristica così coraggiosamente iniziata a Londra e che si estese anche ad Edimburgo. Ed alcuni anni dopo, nel 74, contribuì con Elizabeth Garrett Anderson e Sophia Jex Blake alla fondazione della London School of Medicine for Women, dove insegnò ginecologia. Nel 95 scrisse e pubblicò ad Hastings in Inghilterra la sua autobiografia della prima donna medica degli Stati Uniti. Nella prefazione al libro è scritto: è stato spesso chiesto di conservare un resoconto di alcuni dei primi sforzi attraverso i quali la professione medica dei nostri giorni è stata aperta alle donne. Nella convinzione che una grande guida provvidenziale possa spesso essere riconosciuta negli episodi relativamente banali della vita di un individuo, questa richiesta di molti amici viene qui soddisfatta. Elizabeth si ritirò gradualmente dalla vita pubblica e trascorse il resto del tempo viaggiando. Lasciò il corpo il 31 maggio del 1910 tra le braccia amorevoli della cara figlia adottiva Kitty, che era rimasta con lei tutta la vita. E per concludere, mi piace anche ricordare la forza e la determinazione di queste due donne nella ricerca, nella progettazione e realizzazione dei loro luoghi di cura. La storia degli edifici in cui però Elizabeth Garrett Anderson. La prima struttura fu il St. Mary's Dispensary, fondata a Londra nel 1866, che 6 anni dopo si trasformò, con il finanziamento del padre e del marito, nel New Hospital for Women, a cui furono aggiunte 2 case con giardino riadattate per l'uso e oggi è diventato un hotel. Il nuovo ospedale, per cui fu richiesto un contributo pubblico, fu costruito nel 1889 con il contributo delle architette Agnes, sorella di Elizabeth, e sua sorella Rhoda, che nel 1875 aprirono a Londra il primo studio per disegni da interni gestito da donne. Nel 1890 fu inaugurato con 42 letti il New Hospital for Women, che assunse il nome di Elizabeth Garrett Anderson Hospital un anno dopo la sua morte. L'ospedale continuò ad avere uno staff medico esclusivamente femminile fino agli anni Ottanta. Nel 2001 si fuse con l'Obstetric Hospital e dal 2008 i servizi neonatali e la maternità si sono trasferiti nel nuovo University College Hospital Elizabeth Garrett Anderson Wing. All'interno dell'edificio vi è un'installazione permanente per raccontare la vita di Elizabeth Garrett Anderson, del suo ospedale e della lotta delle donne per raggiungere l'uguaglianza nel campo della medicina e anche in altri campi, la storia degli edifici in cui operò Elizabeth Blackwell. Nel 1853 fu fondato in New York Dispensary for Women and Children, e 4 anni dopo, con la presenza della sorella Emily e della medica Zakharievskaya, nacque il New York Infirmary for Indigent Women and Children. In questo edificio la prima donna medica americana, Elizabeth Blackwell, fondò il primo ospedale completamente costituito e condotto da donne. The New York Infirmary for Women and Children fu inaugurato il 12 maggio del 1857, data in cui si festeggiava anche il compleanno di una cara amica e collaboratrice della Blackwell, Florence Nightingale. A quel tempo, fatto rivoluzionario, l'ospedale offriva cure mediche gratuite per donne e bambini poveri e offriva esperienze cliniche e formazioni a donne determinate a seguire e a realizzare le loro abilità come mediche. Nel 1858 l'ospedale si trasferì in una sede più ampia, dove rimase per 90 anni. Una delle amministratrici, Ann Daniel, scrisse negli anni 30 del Novecento un libro. L'autrice fu una medica americana specializzata in ostetricia, ginecologia e pediatria e riformatrice della sanità pubblica, concentrata sul miglioramento delle condizioni di vita nelle case popolari e della popolazione delle carceri femminili a New York City. Anne proveniva da quei luoghi, dunque conosceva il pericolo di essere esposta alla povertà e alle relative malattie nelle case popolari a causa della connessione tra salute ed ambiente sociale. Con il suo libro influenzò Sarah Josephine Baker, medica americana che contribuì alla salute pubblica e alla medicina preventiva, specialmente nelle comunità di immigrati a New York City. Prima donna ad ottenere un dottorato in sanità pubblica e prima donna nominata rappresentante alla Società delle Nazioni, in seguito ONU.